puta, ella strada il loro credo, contro i passi la loro rabbia, sopra i muri il loro nome, sacco per di, sacco per di, sacco per di, sacco per di, sacco per di, sacco per di, sacco per di, sacco per di, sacco per di, Porti fiorentini, si ne partono arrivati, dietro porti fiorentini, si ne partono sono arresi, sacco porti, sacco porti, sacco porti, un salutone a tutte e tutti e nuova puntata di Passaggio al Nord-Ovest, la trasmissione di Radio Wombat che parla dei fatti che accadono nel quadrante Nord-Ovest di Firenze, fatti narrati da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Passaggio al Nord-Ovest la potete ascoltare in diretta il lunedì alle 13.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Per lo streaming, i podcast, le notizie, i palinsesti e la radio potete andare su wombat.noblogs.org e dalla pagina principale ascoltare la diretta in streaming o accedere alle varie sezioni. Il menu podcast è il primo sulla sinistra. Le varie trasmissioni sono elencate in ordine alfabetico e scendendo giù troverete anche Passaggio al Nord-Ovest. Questa settimana intervistiamo Francesco del Comitato di Resistenza URD Santa Rosa. Certamente l'ASL dell'Ungarno Santa Rosa non è situata nella periferia nord-ovest della città, ma riteniamo importante cercare di capire quello che succede sul tentativo di esternalizzare e privatizzare i servizi sanitari, sia perché può essere replicato, tutto ciò può essere replicato in tutta l'area metropolitana, sia perché l'ASL Santa Rosa è un presidio sanitario storico e importante e utilizzato anche da chi abita nella periferia della città. E quindi siamo qui con Francesco del Comitato di Resistenza ASL Santa Rosa e gli chiediamo subito una carta d'identità di questo presidio. Sì, ciao a tutti. Allora, il presidio ASL di Santa Rosa è uno dei presidi fondamentali del centro storico del centro di Firenze, è attualmente l'unico presidio sanitario oltre all'ospedale di Santa Maria Nuova, esiste da tantissimi anni, è un presidio che ha molti servizi sia di base sia specialistici, ha servizi di cardiologia, oculistica, audiologia, fisiatria, ha un otorino, servizio di ortopedia, chirurgia, dermatologia, urologia, medicina legale, il CERT, neurologia, dietista, omeopatia, fisioterapia e psichiatria. E ha all'incirca una utenza media giornaliera di 500-600 persone. Quindi uno dei presidi sanitari più grossi del territorio, di sicuro dell'Oltre Arno, ma anche di tutto il territorio fiorentino. E diciamo, allora, si sta addensando, cioè, sia la svendita dell'immobile e sia chiaramente la dispersione, diciamo, di tutti i servizi sanitari che ci sono all'interno. Chi è che sta operando questa manovra? Chi è il proprietario dell'immobile? Sì, il proprietario dell'immobile è l'AS stessa. E comunque l'AS fa riferimento alla regione toscana, quindi AS e Regione sono proprietari dell'immobile. L'immobile è in vendita da diversi anni, anche sul sito della stessa Regione Toscana si può trovare un prospetto di vendita, ma non riesce a essere venduto, un immobile di all'incirca 7.000 metri quadri. E quindi a seguito di paventate proteste dei cittadini e anche qualche opposizione un po' più politica dall'alto, diciamo, è stato deciso di accantonare il progetto di vendita, ma comunque di portare avanti la chiusura del presidio sanitario, andando dislocare o a far scomparire i servizi, quelli che sono i servizi di base, quindi analisi del sangue, appaltandoli a pubblici privati, Croce Rossa, Misericordia, Humanitas, e già di quello non ci va bene. Servizi specialistici, un grande punto interrogativo, non sappiamo se verranno fatti sparire, se alcuni verranno spostati all'IoT di Piazzale Michelangelo, piuttosto che Ora, negli ultimi giorni è apparso sui giornali questa grande ristrutturazione di Borgo Nissanti, anche quello presidio ASL dismesso, e che adesso si parla di voler rimettere in sesto dopo la chiusura di Santa Rosa, con dichiarazioni del legale della ASL che si occupa degli immobili, che hanno detto saranno lavori lunghi e difficili, si stima una spesa minima di 4 milioni e mezzo di euro per Borgo Nissanti. Quindi ecco, non c'è più la vendita e quindi viene anche a cadere la presuntuosità di una delle motivazioni, no? Cioè di vendere l'immobile per far cassa, semplicemente c'è una riorganizzazione dei servizi sanitari che va in un'unica direzione, la privatizzazione sostanzialmente. Esattamente, la privatizzazione del sistema sanitario e in più anche, secondo me, si lega bene allo sventramento dei quartieri del centro. Comunque, come questo mi è stato detto da uno dei signori anziani presenti alle nostre assemblee del comitato, cito testuali parole, secondo me molto significative: non c'è comunità laddove non c'è servizio sanitario. E quindi sì, queste due cose. Quindi ecco, al di là della riorganizzazione e quindi della privatizzazione del servizio sanitario, c'è anche, diciamo, la dismissione dell'ASL Santa Rosa, va nella direzione della gentrificazione di quella zona. Insomma, sostanzialmente pensano che nel futuro sempre meno abitanti reali e quindi, secondo loro, sempre meno necessità dei servizi. Sì, sì, sicuramente. Sicuramente questo è proprio palese, anche perché non si giustifica altrimenti la chiusura di questo servizio sanitario, di questo presidio sanitario. C'è da dire che la regione e l'ASL hanno trovato una scusa anche a livello economico, diciamo, è prevista lo spostamento dell'assessorato alla sanità della regione, che attualmente è in affitto a 700.000 euro l'anno in via Alderotti, però si capisce bene che questa è una scusa, perché la regione e l'ASL stessa sono proprietari di tantissimi immobili. In realtà, appunto, la regione e l'ASL stessa sono proprietari di tantissimi immobili, tipo Villa Basileschi, Sant'Agnese, che l'ex Meyer, che potrebbero essere benissimo utilizzati come sede dell'ASL stessa, sostanzialmente, mentre invece ci sono aste di vendita anche per quegli immobili lì. Sì, sì, sicuramente, infatti è paradossale tutto ciò, ma anche Santa Rosa stessa è talmente grande che potrebbe, ora non abbiamo fatto dei piani di valutazione con geometri eccetera, ma potrebbe ospitare tranquillamente sia l'assessorato della sanità regionale sia l'attuale presidio sanitario. Ci ascoltiamo ora un pezzo musicale, lui è Kento e il brano è Nel mio mondo. Coniuga il passato, è un presente alternativo a ciò che ci è stato dato. Hai presente uno sliding doors della mente dove in Cile il presidente è ancora il cliente. Niente più santi né profeti, non più analfabeti e meno imprenditori che poeti. Nel mio mondo niente colpi alla schiena, nel mio mondo John Belushi ha smesso di farsi in vena. Ed io lavoro e fatico a restare in sveglio, pure nel mio mondo però mi pagano un po' meglio. La rivoluzione è viva, perché Guevara non è stato assassinato in Bolivia. E un governo è diverso da una banca, Ilsa resta insieme a Ricca a Casablanca. Eppure nel mio mondo la mia donna è la mia vita, pure lì la amo ma lì non l'ho tradita. E se il tuo mondo non è questo, no, il mio mondo non è questo, dobbiamo costruirlo perché un giorno sia diverso. Sì, ma se vuoi che sia diverso, sì, voglio che sia diverso, inizia a costruirlo cominciando da te stesso. E se il tuo mondo non è questo, no, il mio mondo non è questo, dobbiamo costruirlo perché un giorno sia diverso. sia diverso. Sì, ma se vuoi che sia diverso, sì, voglio che sia diverso. Inizia a costruirlo cominciando da te stesso. Nel mio mondo meno cocktail e più dancehall, molti più cischi ma niente pagliacci in Parlamento. E un giovane anche a Reggio potrà farsi un suo futuro. Nel mio mondo Anakin batte il lato oscuro. Nel mio mondo l'arte è elementare, il futuro non cancella la cultura popolare. Né lavoro straordinario, né contratti da precario, né Chelsea che in curva, né Spirri allo stadio. E la pietra scartata è pietra d'angolo, la pietra miliare non è quella dello scandalo. Là nel mio mondo la pietra filosofale, vedo lapidi, non nemici da lapidare. E ho fatto un sogno come Martin Luther King. Serve un secolo, un miracolo, l'oracolo dei Ching. È un incubo da vivere, lo scrive Stephen King. Ma è un mattone del mio mondo, ogni pugno su sto ring. E se il tuo mondo non è questo, no, il mio mondo non è questo. Dobbiamo costruirlo perché un giorno sia diverso. Sì, ma se vuoi che sia diverso, sì, voglio che sia diverso. Inizia a costruirlo cominciando da te stesso. E se il tuo mondo non è questo, no, il mio mondo non è questo. Dobbiamo costruirlo perché un giorno sia diverso. Sì, ma se vuoi che sia diverso, sì, voglio che sia diverso. Inizia a costruirlo cominciando da te stesso. Il mio mondo è un foglio bianco che ho da scrivere, ha mille aspetti e concetti messi in rima che ho da incidere. Non sempre ride, ma ha immagini vivide e mille riflessi con cui potersi esprimere. Oltre ogni limite puntando all'infinito, pure se io stesso guardo troppo spesso il dito. Meno boy band, più reggae e rap, più Pasolini, meno platinette. E voglio più domeniche senza preti e prediche, né tonache né monache di religioni steriche. Se la capisci è natural mystic, c'è meno fede in santa sede che nei dischi. E nessun papa, nessun ayatollah che imponga come un dogma la spiritualità. Se il mio diventa nostro, diventa una società, io non mi fermo. It's my world and I want to. E se il tuo mondo non è questo, no, il mio mondo non è questo. Dobbiamo costruirlo perché un giorno sia diverso. Sì, ma se vuoi che sia diverso, sì, voglio che sia diverso. Inizia a costruirlo cominciando da te stesso. E se il tuo mondo non è questo, no, il mio mondo non è questo. Dobbiamo costruirlo perché un giorno sia diverso. Sì, ma se vuoi che sia diverso, sì, voglio che sia diverso. Inizia a costruirlo cominciando da te stesso. Era Kento con Nel mio mondo. Riprendiamo l'intervista. E quindi con un'utenza di 500-600 persone giornaliere ci sarà qualcuno o anche tanti che si sono un po', che si sono arrabbiati da questo punto di vista. Ecco, cosa sta succedendo rispetto all'opposizione allo smembramento dei servizi, anzi alla privatizzazione dei servizi? Sì, ci sono state due assemblee di questo comitato che abbiamo creato e abbiamo un po' discusso di come poter portare avanti una forma di opposizione a questa chiusura. E devo dire che c'è una discreta carica di rabbia da parte di tanti utenti di Santa Rosa. E ci sono venute un po' di idee. La prima è stata, visto che alle nostre riunioni avevamo invitato anche l'assessore alla sanità Stefania Saccardi, e ci ha risposto che aveva un'importante cena e non poteva venire, però ci ha detto che organizzerà un incontro pubblico proprio inoltrarno per parlare di Santa Rosa, e quando verrà a fare questo incontro, una farsa, perché se voleva parlare poteva venire alle nostre riunioni e parlare con gli utenti che si interessano di questo problema. Quando verrà, quindi, ma noi non ti si vuole ascoltare. E questa è una cosa molto molto significativa, che da un comitato cittadino venga una presa di posizione comunque forte e chiara su chi sono, chi è che manovra le cose, chi ci vuole prendere in giro, tra i primi l'assessore stesso. Ecco, anche rispetto a questo, rispetto a chi cerca di manovrare, diciamo, o a chi cerca di prendere in giro, c'è stato un episodio un po', diciamo, tra virgolette, increscioso, ecco, rispetto a un'assemblea da voi già indetta e, diciamo, già confermata fino al giorno prima, ecco. nel posto che avevate chiesto per fare l'assemblea. Sì, noi avevamo richiesto e c'era stato dato l'ok, la possibilità di utilizzare una stanza di un circolo di via Pisana, quindi un luogo nel quartiere a cavallo fra proprio il quartiere 1 e il quartiere 4, come Santa Rosa, e il giorno prima della riunione veniamo chiamati per dirci che la riunione non si poteva effettuare lì, con la scusa che avevamo attaccato dei manifesti che indicevano la riunione stessa. Manifesto che avevamo attaccato anche al circolo stesso, ma di cui il presidente del circolo diceva di non essere stato informato. Alla fine ci siamo presentati comunque, nonostante le minacce addirittura di chiamare le forze dell'ordine se ci fosse un'assemblea di cittadini, di quartiere, e per fortuna la determinazione dei partecipanti è stata tale che non hanno potuto, il presidente e insomma i gestori del circolo non hanno potuto dire no, sputtanarsi oltremodo, insomma. Ecco, ci sono state successivamente a questa assemblea, ci sono state anche recentemente delle iniziative. Sì, c'è stata ieri una seconda assemblea e poi da questa assemblea abbiamo deciso un po' di iniziative future. E quindi lunedì 29 ci sarà innanzitutto un'altra riunione del comitato, la sera, ancora non sappiamo il posto, abbiamo fatto un po' di richieste, e poi il giorno andremo in consiglio comunale a fare pressione durante un'interrogazione di un consigliere comunale riguardante il futuro di Santa Rosa. Poi in futuro appunto abbiamo intenzione di accogliere la Saccardi quando verrà a trovarci in Oltrarno e anche di organizzare qualche volantinaggio con blocco del traffico a Ponte alla Vittoria. E ecco, parlavi insomma che la risposta è stata, cioè c'è una discreta rabbia, ecco, per la chiusura di questo periodo. Com'è la composizione dei soggetti, diciamo, che hanno partecipato a queste iniziative? È abbastanza mista, cioè ci sono un gruppo di giovani, principalmente gravitanti all'occupazione di Via del Leone, e poi la maggior parte sono tutti signori anziani e hanno partecipato anche 2-3 lavoratori. Ecco, proprio quelli diciamo più colpiti, quelli che utilizzano di più, ecco, i servizi sanitari, quelli con meno reddito e quindi chiaramente li sarebbero più colpiti dalla chiusura delle prestazioni sanitarie dell'ASL Santa Rosa. Sì, esattamente. Comunque l'utenza, la partecipazione è stata principalmente dell'utenza, più appunto qualche lavoratore, perché comunque ai lavoratori, ai 150 circa lavoratori di Santa Rosa, è già stato detto di cominciare a preoccuparsi di trovarsi un altro lavoro. Ecco, prima quando dicevi lavoratori intendevi proprio lavoratori dell'ASL? Sì, dipendenti ASL. Va bene, ringraziamo Francesco e c'è dei punti di riferimento magari anche in rete per seguire questa vicenda. Sì, esiste una pagina Facebook che si chiama Comitato di Resistenza ASL di Santa Rosa. E la teniamo aggiornata e ci aggiorneremo lì sulle iniziative future. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Wombat e ringrazio per lo spazio concesso. Ciao, ciao.